Ma c'è la gomma piuma sopra? No, c'è il linoleum. Il linoleum? Su una base che comunque è di legno, no? Cioè, base di legno, poi sì, c'è un... Quindi il rimbalzamento, cioè tutti i vari colpi che dai non ti vanno ad avere effetto sulla colonna vertebrale, ma è tutto proprio regolarissimo. E in più c'è anche l'assicurazione, perché te devi fare la tessera. Ah. Infatti ci sarà la performance del tesseramento. Si dice performance. Cavoli, ecco, l'avevo sbagliato. Però nella scorsa puntata l'avevo detto giusta, eh? Brava. Ma aspetta. Era anche più bella la puntata scorsa di questa. Ma aspetta un attimo, abbiamo qui la Roberta Zerbini. Sì. Che era... Quella della puntata scorsa? Sì, che doveva... E cosa deve dire ancora? È che no, oggi è il 21 e quindi... scusami, oggi sì. È il 21 e quindi deve raccontarci gli altri eventi che dal 21 sono, no? Cosa succede dal 21 in poi? Non dal 21, perché... Sì, oggi è il 21. Oggi è il 21 giugno, per cui da... Giugno. Certo. È il 278. Okay. Come passa il tempo? Allora, c'è un meraviglioso weekend di Contact Improvisation, quella cosa che ci aspetta prima, dal 28 al 30 di giugno. Dopodiché invece c'è un ospite, Pablo Tapia Leighton, un danzatore, che farà un seminario. Da dove viene? Dal Venezuela. Sorbole. E farà un seminario per danzatori, questo. 5 giorni di 5 ore al giorno, con una restituzione finale che sarà l'anticipazione dell'inizio del festival, quindi il 6 luglio. Alla sera. E intanto in questa settimana continuano sempre le morning class di contemporaneo gestite da Martina Del Prete. Esatto. E poi gli incontri di danza per la cittadinanza. Com'era danza di comunità, ecco. Che fatti vivo, mi raccomando, fatevi vivi. Condotti da Roberta Zerbini, anche questi appuntamenti settimanali che avranno esito in una performance. L'ultimo giorno del festival. In una performance. Sì. Sempre sì. Quella lì che dice, esatto. La Chiara. Comunque tutto questo lo trovate su www.coxospaziale.blogspot.com. Sì. Da domani. We'll be right back. Anche questo, anche quest'oggi la puntata è registrata per via di questi saggi di fine anno che stanno sconvolgendo la vita di tutti, non solo di chi ha a che fare con le docenze universitarie o meno. Infatti oggi stasera io Federa non c'è, io nemmeno, io perché sono all'inaugurazione della mostra di fine anno della Fondazione Fotografia di Modena, mentre invece in questi giorni, ieri soprattutto e anche l'altro ieri e lunedì, ci sono state un sacco di inaugurazioni di Open Tour qui a Bologna. Ovvero Open Tour sarebbe la serie di mostre di fine anno degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, che negli ultimi 3 o 4 anni è diventata una faccenda veramente virale ed enorme. Pensate che ieri hanno inaugurato ben 18 gallerie con 18 nuove mostre collettive, appunto curate dai docenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e con opere di studenti laureandi dell'Accademia, appunto. Non solo, lunedì scorso c'è stata la prima mostra all'interno del Museo Civico Medievale, che si intitola, perché è ancora su fino al 14 luglio, la potrete visitare, si intitola Esercizi di Stile, a cura di Tatiana Basso, che è una giovane studentessa dell'Accademia, anche lei con opere abbastanza particolari. Questo è all'interno del Museo Civico Medievale, ma attorno al fantomatico Musée de l'Homme, quest'opera installativa museale, insomma praticamente è un comò in cui dentro ci sono opere d'arte che ha donato Chiara Pergola all'istituzione Bologna Musei. E all'esterno di questo comò ci sono appunto le opere di questi tre artisti, che sono Li Zhuwei, Ilaria Minelli, Golza Sanganyan e Agata Torelli. E Agata Torelli all'inaugurazione ha fatto questa performance chiamata Ti tengo io, dove lei da sotto, inizialmente uno entra e vede questi scarponi e pensa che siano una scultura che ricorda un po', non mi viene in mente l'artista, ma mentre invece appunto girando attorno al comò ci si accorge che è proprio l'artista che sta con un certo sforzo tentando di tenere su questo comò. È una mostra da andare a vedere, ve lo consiglio fino al 14 luglio. Torniamo a noi invece. Ieri hanno inaugurato ben 18 appunto gallerie, ma ieri l'altro invece c'è stata la presentazione di questo volume, sempre che ha a che fare con l'Accademia di Belle Arti di Bologna, questo volume curato da Lelio Aiello, che si chiama Rencontre oppure Rencontre, dipende da come lo si pronuncia. Lelio lo pronuncia Rencontre, per cui che sarebbe Reincontri, ed è effettivamente un volume che raccoglie 10 anni di incontri di artisti all'interno dell'Accademia di Bologna, che sembra una cosa piuttosto scontata, ma in realtà è un'azione artistica, ovvero quella di incontrare artisti che lavorano sul campo direttamente e magari fare workshop eccetera con gli studenti, che per questa cosa per gli studenti è veramente un'esperienza fondamentale, che vorrei che fosse successa anche alla mia generazione. In realtà ricordo vagamente di aver visto una lecture di Milton Glaser a cura di Maurizio Osti, stiamo parlando degli anni, fine anni 80, primi anni 90, e poi Piero Gilardi ricordo anche essere intervenuto all'Accademia di Bologna, ai tempi ormai, ormai antichi, in cui la facevo io. Dicevamo, questo volume edito da Corraini è un volume decisamente interessante, è un volumone, con appunto l'intervento di tutti gli artisti che hanno partecipato a questi workshop e a queste lecture all'interno dell'Accademia di Belle Arti, e Lelio li ha raccolti. Andiamo a sentirlo nelle sue parole. E ho trovato, soprattutto da parte degli artisti, una grande collaborazione, una grande disponibilità, insomma, fin dall'inizio del progetto, insomma, i incontri, come hanno anticipato Enrico e Lorenzo, è iniziato 10 anni fa, anche in maniera molto casuale, insomma, no? Nel senso che Enrico, mi ricordo allora che con una mia collega, insomma, dell'Accademia, un artista, insomma, che insegnava all'Accademia, ma a una pausa pranzo abbiamo sentito proprio questa, abbiamo avvertito proprio questa, diciamo, questa necessità di, appunto, di portare gli artisti in Accademia, insomma, ci sembrava proprio una questione imprescindibile che non era data per scontato allora, insomma, no? non era molto frequente, insomma, no? come questione. Per cui questo aver creato questa possibilità di relazione con gli studenti, insomma, denota chiaramente la principale finalità di questo progetto di 10 anni, insomma, che era appunto chiedersi in qualche modo, io è da un po' che mi chiedo, Lorenzo, per esempio, come insegnare l'arte, no? Cioè, e ho capito che c'è una risposta univoca, cioè tutti dicono, in effetti non c'è possibilità di insegnare l'arte, insomma, no? Per cui sono tutti tentativi che cerchiamo di mettere in campo e che, bene o male, insomma, portano a dei risultati a volte anche inaspettati, insomma, come lo è stato tutto questo progetto e il risultato finale di questo libro, che devo dire la verità ha sorpreso anche me, insomma, no? Perché comunque, oltre ad avere questo scopo importante, insomma, secondo me, di testo di ricerca per gli studenti, insomma, chiaramente è un testo che è un libro che può essere consultato da chiunque interessato all'arte, insomma, no? Perché proprio perché ha un ventaglio di artisti che rappresentano in qualche modo, non so se esagero, la scena italiana, insomma, no? Con delle incursioni anche importanti degli anni 60, insomma, negli anni 70 c'è Baccalli, insomma, c'è Galuzzi, cioè ci sono rappresentanti, insomma, di una certa portata, insomma, per la storia dell'arte italiana. Questa era Golden Square dei Casino di Terra, dal nuovo, loro nuovo album che si chiama Cosa potrebbe accadere, che me l'ha spedito, anzi la ringraziamo, Francesca Grispello di Simpress 44. Dice il comunicato stampa: un manifesto programmatico e artistico dal quale emergono gli elementi più rappresentativi di un progetto unico nel suo genere, jazz and groove, rock e improvvisazione, sperimentazione e ricerca, ricordando maestri come Ornette Coleman. Il nuovo album Cosa potrebbe accadere è la dimostrazione lampante di un percorso fuori dalle classificazioni, alla continua ricerca di nuovi orizzonti. Un album abbastanza particolare. Adesso vedremo se i Casino di Terra arriveranno fino a qui, visto che sono bolognesi, mi dicono. E, no, invece volevo continuare, volevo farvi anche sentire, tornando sempre al discorso di Rencontre, vi volevo far sentire anche un piccolo intervento del direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, Enrico Fornaroli. Cioè, non c'è più, credo, spazio, proprio in virtù non solo della frammentazione dei singoli studenti, no, di coloro che partecipano, ma anche, come dire, di un'identità dell'insegnare l'arte che non è più l'istituzione storica delle accademie, no? E non è più neanche la stagione nel quale si riconoscono figure di riferimento vocazionali, no? Il maestro, per cui in qualche modo tu accetti di entrare in un percorso di crescita, no? Che è accompagnato da chi, no? Ti fornisce gli strumenti e alla fine ti fa attraversare la palude, no? Se ci fosse il maestro non avremmo più il timore di attraversare la palude, perché ci sarebbe qualcuno che ci accompagna, ci fa entrare e ci fa uscire. Il timore è proprio legato al fatto che, come citava giustamente Airo, l'unico modo oggi è la maieutica, cioè è quello di offrire degli strumenti che diano agli studenti nella loro formazione la capacità di attivare sguardi diversi e prospettive diverse. Perché questo? Perché effettivamente anche il sapere artistico, quello che noi quotidianamente condividiamo con i nostri studenti, ormai è difficilmente come dire, definibile in modo univoco, no? Noi continuiamo giustamente, perché è il riferimento a quello che è la storia dell'istituzione accademica. Noi abbiamo i corsi di pittura, di scultura, di decorazione, di grafica d'arte, ma tutti giustamente discutono su a pittura puoi utilizzare il linguaggio della scultura, a scultura ormai si fa, diciamo, si mettono insieme linguaggi e tecnologie e tecniche che sono ormai non più incasellabili, no? In un percorso piuttosto che in un altro. E allora questa pluralità di approcci, questa pluralità ovviamente di possibilità coincidono con una diversificazione che ovviamente ti mette di fronte all'horror, cioè il fatto che il timore, no, del riuscire a... E quindi la formazione per me oggi passa proprio attraverso questo, cioè in realtà non è più accompagnare, no, colui che ha la vocazione artistica in un percorso che ha comunque un approdo, che sarà quello, come dire, anche dell'elevazione spirituale, non è il sensei, no? Non è il monaco Shaolin che ti fa attraversare un percorso, ma è colui che ti accompagna e ti offre degli strumenti per poter offrire a te la tua individualità il modo per uscirne in modo assolutamente singolare, ricercando forse quell'identità a cui si faceva riferimento prima, no? Il tema è chi siamo quando entriamo e cosa saremo e chi saremo quando usciamo. Ecco, il compito difficilissimo, ed è venuto fuori anche in questo confronto di quest'oggi e viene fuori molto bene negli interventi nel libro curato da Lelio, è proprio questo, cioè cercare di individuare e capire qual è la figura, no, del docente, no, dell'artista che si mette in gioco anche confrontandosi con la formazione, no? Perché è molto, uno può dire giustamente, no, io sono un artista, non mi preoccupo, non mi pongo il problema di formare altri, no? E invece la cosa assolutamente interessante, bella, positiva, e qua è confermata da quello che diceva anche Lelio, quando però gli artisti li inviti, quando come dire, li inviti a partecipare, a mettersi in gioco con, appunto, con la, il tema della formazione, no? Col raccontare se stesso e raccontare e formare gli altri, non si tirano indietro. Questi erano i Leda e il pezzo si intitola Icaro. I Leda nascono dall'incontro dei musicisti Enrico Vitali, Serena Abrami, Fabrizio Baglioni e Mirko Fermani. da anni attivi nei rispettivi progetti del panorama della musica italiana underground e cantautoriale. La loro estetica nel DNA, l'overdrive, la new wave, il trip rock e l'alternative rock, nel contrasto emotivo tra il velluto del timbro vocale e l'abrasività dei suoni. Io devo dire che sono sempre stato un fan di Serena Abrami da quando l'ho vista per la prima volta, ebbene sì, ad X Factor, era veramente tanto tempo fa. E niente, grazie Serena e grazie a Ileda che mi hai mandato tutto l'album, e io spero davvero di potervi ospitare a Coxo Spaziale in una di queste puntate calde ed estive. Il nuovo disco si intitola Memorie dal futuro, è uscito il 12 aprile 2019, avremo modo di sentirne di più, e anzi speriamo di poterli sentire dal vivo. L'angolo della menzione. E naturalmente, malgrado la maggior parte delle inaugurazioni siano successe tra ieri e oggi, in realtà l'open tour dell'Accademia di Belle Arti di Bologna continua anche stasera, appunto, all'Accademia di Belle Arti, aperta fino alle 24, per cui se volete andare a visitare le varie mostre che ci sono in tutte le aule dell'Accademia, potete farlo. Lo stesso vale per il teatro dell'Accademia. Questa sera alle 21 c'è The Beggar's Opera di John Gay, una rivisitazione dell'opera del mendicante John Gay, una bella d'opera scritta 3 secoli fa, satira feroce della società, fonte di ispirazione per l'opera da 3 soldi di Bertolt Brecht. E mentre invece domani, sabato 22 giugno, c'è il closing event, ovvero la festa finale all'interno dell'Accademia di Belle Arti dalle 19 alle 24. Continua l'Art Fest negli spazi dell'Accademia, mostre aperte, spettacoli e un momento speciale dedicato ad Art Up, il premio della critica e del collezionismo. In realtà poi anche domenica 23 giugno alla Pinacoteca, lì di fianco, in via Belle Arti, alle 16.30 e alle ore 18, Chi ha paura dell'iconografia. Con 5 diversi kit di ricerca, le squadre speciali di bambini e adulti dovranno risolvere sottili indovinelli e confrontarli con i dettagli delle opere. Saranno così svelate alcune sconvolgenti varianti capaci di suggerire una nuova prospettiva di visione. La visita è gratuita per bambine e bambini tra gli 8 e i 12 anni e a pagamento per i loro accompagnatori, massimo 25 persone fino ad esaurimento posti. Basta, dopodiché finisce la settimana di Open Tour. Io vi consiglio assolutamente di andare a vedere, andate su www.coxospaziale.blogspot.com, controllate il link della Notte delle Gallerie e andate a vedere appunto queste 18 mostre. Direi di andarle a vedere entro sabato, perché effettivamente alcune di queste finiscono dopo pochi giorni, ma decisamente merita vedere una città che si apre all'arte contemporanea in questo modo. Last but not least, il 27 giugno, che se non erro è giovedì della settimana prossima, alle 18.30 c'è una collettiva in uno spazio che non conosciamo. Si chiama Ordine Estraneo, a cura di Leonardo Regano, con Amandine Samin, Andrea Renzini, Chiara Pergola, Marina Gasparini e Vincenzo Simone. La mostra è su fino al 3 luglio, solo su appuntamento, ed è in via Guinizelli 4 a Bologna, Suonare Estraneo. Questo è il 27 giugno alle 18.30. È quasi una mostra così segreta, però andiamo tutti. We'll be right back. ocean, don't slow me down. I'm still in motion, oh. In motion, don't slow me down. Coxo spaziale. Che state facendo? Sto ascoltando Coxo spaziale. Coxo risponde. Pronto? Senti, io ho un altro problema, ti volevo dire, ma se io ti faccio dire delle cose al telefono con me e poi le trasmetto nel mio programma radio anziché nel tuo, il copyright di quello che tu dici è mio o è tuo? È mio, di chi le dici? Mi puoi dire... Dimmi. Città Fujiko? No, non posso dirlo, cioè non posso dirlo. Allora, posso dire io questo è Punto Radio oppure mi fai... Sì, questo lo puoi dire. Quello lo puoi dire, sì, sono ascoltatore. Sì. Questo... Okay, allora lo dico, Punto Radio. Grazie. Creatività generica. Ecco, salutiamo anche Marco Dondarini e anche Massimo Galletti che ho offeso abbondantemente. Loro sono dei colleghi di radio di una trasmissione che si chiama Fuori d'Onda, che c'è tutte le mattine su Punto Radio. Naturalmente non si può fare la pubblicità di una radio competitor, ma chi se ne frega, noi siamo Coxo Spaziale, siamo al venerdì sera e facciamo anche questo, sperando che il nostro direttore non mi licenzi. Edizione straordinaria, è estate, uscite solo nelle ore calde, bevete poco, al mare sono ottimi i raggi UV e l'olio di palma è salutare, consigliato non vaccinarsi. Caro amico, mangiamo insieme fino a scoppiare, poi andiamo a nuotare, andiamo allo stadio con aria di sfida, in mezzo agli ultra, ma dell'altra squadra, brinda stasera e ridi di gusto che forse domani sei sotto un cipresso, canta e balla che la vita passa e chissà che il prete ti nomini a me. Sai che l'ami anche se impegnata, cos'è mai una rissa di fronte alla vita, riporta al cielo il tuo corpo usurato per dare la prova che è proprio apprezzato. Apprezzato e goditi la vita che poi magari muori e vive al massimo da qui fino ai crisantemi. fredda, ma un bel vestito. E vivo la linea che ho sempre sognato. Non riesco a capire, tu dammi uno schiaffo. Se non mi riprendo, tu chiama TAF. Omofobi e bulli, ci hai pensato mai? Magari muoiono prima di noi. Violenti e razzisti, il marmo vi dona. Chissà, forse TAF da voi viene prima. Del nostro ospite misterioso. Esatto. Saluta il pubblico. Sentite che bella, ciao. Che bella voce radiofonica che ha questo ospite misterioso. Deve rimanere così tale, altrimenti okay. Poi diventa una star della, di Rai 3 e non viene più al Coxo. Esatto, quindi noi non confesseremo mai neanche sotto tortura di chi si tratta, anche perché adesso andiamo a rivelare un piccolo... Da cui si potrà capire un benissimo chi è. Mi tradirò sicuramente. Ti tradirai sicuramente. Allora, tu racconta questa storia. Una tua collega, quindi... Deve andare in pensione. Con quota 100, ovviamente. Sì. Ovviamente. E quindi c'è il problema di cosa regalarle. Cosa regalarle? E una mia collega, tutti noi... Una mia collega ha avuto questa splendida idea di regalarle un quadro. Che mi sembra un'idea ineccepibile, cioè grandiosa. Parliamone. Noi non possiamo che sottoscrivere. Quindi, Tu sei venuto al Cox per chiedere consiglio? A noi, che ce ne intendiamo. Quale quadro regaliamo alla collega dell'ospite misterioso? Deve essere un quadro che soddisfi più il suo gusto o il suo necessità di investimento economico? Che è un tema che noi abbiamo trattato approfonditamente nelle puntate sì, di qualche mese fa. Vi mandiamo gli ascoltatori al blog le puntate di gennaio, febbraio, quando hanno fatto Arte Fiera quest'anno. Esatto, di gennaio, eravamo sì, fine gennaio. Mm. Quindi? È difficile. Tu pensi che la tua collega voglia arrotondare la pensione e affrontare i tempi di magra investendo in arte come bene rifugio? Grassa risata generale. No, lo escludo. Lo escludo. Lei è una... Che gusti ha? Non dare troppi indizi che poi attenzione. Diciamo brava. Che comunque è militante. Militante, quindi bene. Si potrebbe... un ritratto di Berlinguer. Militante no. Di pensione. No, diciamo che più militante. Che militante è un antagonista normalmente. Ho capito chi è. Si un ritratto di Agnoletto. No, i miei informatori. Mettici un bip qua. E allora si potrebbe consigliare qualcosa dell'Emanuela Scari. Perché ha a che vedere con il green, con no, no, se esatto, però, secondo me di Pasquini ce n'è per tutte le sponde. Ma se poi sul campo dell'ecologia non hai ma una scusami, produzione obsolete così. Sheet, è con cime. Vedi? C'è vedi? Il pubblico in sala che sta domandandosi cosa sta succedendo. Il pubblico in sala non segue la trama. No, vabbè, allora, come investimento, io per riassumere, no? Perché poi bisogna anche fare perché sono già passati 3 minuti e 12. Su cioè, questa cosa che interessa anche poco. Che non si, esatto. Insomma, secondo me ha della sua utilità. Insomma, no, indubbiamente. No? Comunque, per sintetizzare il punto, volendo investire come bene rifugio, io senz'altro suggerirei un Pasquini. Volendo anch'io. Invece scegliere qualcosa che ha a che fare con tematiche ecoambientali, io sceglierei Pasquini nella nostra lei sceglierebbe col Pasquini, W però altrimenti vabbè allora facciamo così. Ma no, la Scari, tu consiglia un Pasquini, no, io consiglio poi di cambiare regalo francamente io non sono d'accordo, comunque prendiamo il 50% se si va all'acquisto di un Pasquini io voglio la percentuale. E a questo punto il discorso è concluso. Coxo spaziale. Some things don't sit right. This close to midnight. You're someone else in this light. Ooh, ooh, ooh, ooh. Stand in the kitchen, attempting to fix this. So I try to listen to you, you, you. What? You're gonna say something you told me. So just before you take it too far, I'll hold my ear, say la da da dee da. Your empty words made for hurting me. So just before you take it too far, queste coxate di arte contemporanea. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, è il 28 giugno, e avremo come ospiti Serena Carbone, Annalisa Cattane e anche un sacco di altri personaggi, alcuni un po' dubbiosi, del mondo dell'arte contemporanea bolognese. Anzi, faremo una bella chiacchierata proprio su facendo un po' il punto della situazione, di quello che succede in giro, per cui non mancate la prossima puntata, sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM, sempre Coxo Spaziale, sempre al venerdì dalle 20 alle 21. Io ero Stefano W. Pasquini, la mia co-conduttrice un po' assente oggi è sempre la nostra cara Fedra Boscaro, che fra l'altro è appunto nel bosco del Paleotto a ballare, se volete passare a salutarla, e noi ci sentiamo venerdì prossimo. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Houston, we have a problem, that's it, I'm going under, time's up for our left son, we were just a one-hit wonder, sorry, I had to text it, I'm done, this is my Brexit, try to press rewind, I swear all of my attempts were desperate, oh, this is so crazy, go try to amaze me, you fire back, start yelling in caps, perhaps you know better, someday after the party's over, I hate it when we're sober, play the music louder. option. We have a problem. Gotta go down. Falling into bits. Is it time to say it's over now? Gotta go down. If the pieces fit, is it time we could start all over now? From under, I've been playing my part so hard. Are you still there? I wonder. Sorry, but I'm in the taxi. Shit talking from the backseat. I've been running away on the way down to this dead end street. Oh, so we're just crazy. Go keeping a race in all my trucks. Say I was a mess, I guess you know better. Someday after the party's over, call back when it gets colder, play my music louder. Houston, we have a problem. Gotta go down. Falling into bits. Is it time to say it's over now? Gotta go down.